diploma in matematica da stracciare. Così mi sono dato all'arte aurea, il primo a vedere tutto, e ste stronze mi lasciano in disparte. Non ho fatto milioni di euro, ma un milione di rime. In Italia non vanno tanto per il sottile. Il primo a vedere tutto, e questi dottori la chiamano follia, e rimango in lutto. Non ho fatto milioni di euro, ma un milione di rime. In Italia non vanno tanto per il sottile. Il primo a vedere tutto, e questi dottori la chiamano follia, e rimango in lutto. Conoscono solo televisioni e giornali, e ricordo ci sono andato anch'io, sembrava avere le ali. Rimangono ad oggi gesti sleali, il primo a vedere tutto, e questi mi tarpano le ali. Ho fatto milioni di miglia, più che con gli aerei, con i miei pensieri, il primo a vedere tutto, e il genio rimane solo e in lutto. Ho fatto sogni, metà spezzati, metà avverati, stati di malessere indotti che devono essere curati. Il primo a vedere tutto, e le stelle ora conoscono il mio nome. A sti stronzi, non piaccio, faccio brutto, perché ho spaccato il mondo e celebrato il mio cognome. Quelli con i soldi non mi accettano, accettano il facile, il denaro, lo chiamano geni. La creatività per loro sta nello schiacciare un tasto, sentire una canzone, celebrarsi come il tutto. Coi soldi a torto, senza merito alcuno, e vogliono darti torto. Sono il più mito in questa città da buttare, così stupenda. In Italia numero uno su number one music. Vivere stupendo fra sti mostri, il mio mostro di bravura su tutti. Un chiostro di storia, ci vorrebbero tutti distrutti. Sti incapaci, pieni di boria, non ci accetteranno mai. Perle saremo per porci, ma questo già lo sai. Dicevi di essere un artista, il tempo ha dato ragione a me. Ora vivo senza tempo, fregandomi di te. Solo una cosa non la digerisco, come primo ti sei mangiato tutto. Porco, porci comodi tuoi, ma ora ti fotto, e me ne fotto se fa male. La tua è sempre stata mentalità normale. Prego, non disturbare il genio in lutto. Prego, non disturbare il genio in lutto. Prego, non disturbare il genio in lutto. Prego,